È evidente che qui siamo di fronte ad uno sfregio della democrazia e della nostra Costituzione. Quando si attacca una sede, la più importante, della più importante organizzazione sindacale del nostro paese, si sta facendo un attacco non solo al movimento dei lavoratori e alla CGIL in quanto tale, ma più in generale alla democrazia, alla Costituzione repubblicana e antifascista. Io credo che sia un fatto gravissimo e importante la reazione che c'è stata nell'immediato, ancora più importante sarà la manifestazione democratica di popolo che faremo a Roma sabato prossimo, a cui sono invitati tutte e tutti a partecipare. Però qui c'è da dire una cosa, credo, prima di ogni cosa, e cioè le formazioni fasciste, neofasciste, naziste devono essere sciolte, perché qui non stiamo parlando di libertà di espressione, qui stiamo parlando di violenza, di prevaricazione, e non abbiamo bisogno di tornare ai momenti più bui di questo nostro paese. Tra l'altro sembra proprio che la questione del Green Pass c'entri poco con quell'aggressione subita, perché la CGIL, in particolare il segretario nazionale Maurizio Landini, aveva espresso una posizione, ad esempio, per quanto riguarda il Green Pass sui luoghi di lavoro, per non far sobbarcare il costo ai lavoratori. Ma noi abbiamo sempre detto una cosa chiarissima, tra l'altro in questi giorni mi pare evidente che vengano fuori tutti i limiti di questo provvedimento e anche le difficoltà organizzative delle imprese. Se è vero che ci sono tra i 3 e i 5 milioni di lavoratori non vaccinati, il problema non è di grignare i denti o appesantire il costo a carico dei lavoratori, il problema è convincerli, il problema è ragionarci, perché io non credo che siamo di fronte a 5 milioni di Novax, probabilmente siamo di fronte a persone spaventate. Ma tutta la partita Green Pass e vaccini non c'entra nulla con l'assalto di Castellini e Fiore alla sede della CGIL nazionale. Quelli sono fascisti prima ancora di essere qualsiasi altra cosa, e i fascisti sono entrati nella casa dei lavoratori italiani. Questo è un fatto gravissimo. Io credo che si faccia fatica a non vedere l'enormità di quello che è accaduto. C'è stato un tentativo di speculare, cavalcare sulle difficoltà che magari, appunto, anche i cittadini e le cittadine stanno vivendo? Ma sicuramente, ma è da sempre così, ed è una cosa che tra l'altro denunciamo da anni. Il fatto che queste formazioni abbiano trovato spazio deriva dal fatto che gli è consentito, io credo ingiustamente, di occupare piazze, di manifestare pubblicamente quello che sono. Ma è chiaro che trova un terreno fertile nel disagio sociale, nella difficoltà di tanti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. Maggiori sono di disuguaglianze, più facile è per costoro provare a coinvolgere e a strumentalizzare anche altre modalità di partecipazione. Quindi è chiaro che bisogna fare le due cose, come ha detto il nostro segretario generale ieri davanti alla CGIL a Roma. Bisogna da un lato contrastare con forza le formazioni fasciste e dall'altro lavorare per ridurre le disuguaglianze. Abbiamo un'occasione storica e questa occasione dovrebbe servire a unire il paese, unire le persone e non a dividerle, e soprattutto a ridurre le disuguaglianze, che sono tante, sono di genere, generazionali, territoriali, e che impediscono a una parte significativa della popolazione del nostro paese di essere parte attiva di un processo democratico. La manifestazione del 16 ottobre, l'Emilia Romagna sta organizzando, che ne so, pullman o modalità per partecipare? Sì, noi stiamo organizzando treni e pullman. Invito tutte e tutti a contattare le nostre camere del lavoro. Abbiamo già ricevuto tante manifestazioni, non solo di solidarietà ma anche di adesione alla manifestazione da parte di partiti politici, associazioni e anche enti locali, sindaci e singoli cittadini. Sarà una grande manifestazione molto partecipata e io credo che ciò possa essere una prima risposta, una risposta per l'appunto democratica di quella parte sana che è assolutamente prevalente e maggioritaria nel paese, ma che ha bisogno a questo punto di manifestarsi.